X24, la storia. Questa è la storia della nascita del campo di Auschwitz e della mentalità dei criminali che l'hanno creato. Signori, il campo verrà ampliato. Un racconto basato anche sui documenti e i progetti venuti alla luce dopo l'apertura degli archivi in Europa dell'Est e su interviste a persone che ad Auschwitz ci sono state. E a quel punto pensai, preferisco morire piuttosto che avere una storia con uno delle SS. Compresi ex appartenenti alle SS. L'ordine diceva, devono essere fucilati. E io avevo il dovere di eseguirlo. Ad Auschwitz, i tedeschi hanno intrapreso il lungo e laborioso cammino verso lo sterminio di massa. Il risultato è un monumento simbolo del loro crimine, una fabbrica della morte. Oggi a Mix 24, a 70 anni dalla liberazione di Auschwitz, raccontiamo la storia della macchina di morte costruita dai tedeschi nella Polonia sud-occidentale. Questo è il racconto dell'attuazione del piano di sterminio del Reich dal 1940 fino alla fine della guerra, che fece di Auschwitz un luogo di sofferenza e di morte. In 4 anni di attività, infatti, ad Auschwitz sono state uccise più di 1.100.000 persone, di cui circa 200.000 bambini. La BBC inglese ha raccolto documenti inediti, testimoni che per la prima volta hanno accettato di essere intervistati. Nasce così la storia del lento perfezionamento della macchina dello sterminio nazista, che include fatti di corruzione delle stesse SS all'interno dei campi, così come episodi di amore tra i prigionieri. E ancora un'altra faccia di quell'orrore così importante da ricordare come un testamento per le generazioni future. Polonia sud-occidentale, aprile 1940. È la primavera del 1940. Il capitano delle SS Rudolf Höss attraversa la Polonia per assumere il comando di un nuovo campo di concentramento nazista. Höss è diretto nei pressi della cittadina di Auschwitz, nel cuore del territorio che Hitler ha conquistato l'anno precedente con l'invasione della Polonia. È qui che Höss deve creare un campo di concentramento. È la prima struttura di Auschwitz, nota successivamente come Stammlager o Auschwitz 1. Ma quando Höss vi arriva nell'aprile del 1940, sono solo pochi edifici. Quello che sarà il più tristemente noto campo di concentramento è nato come una struttura dell'esercito polacco. Un gruppetto di cadenti baracche intorno ad un ampio recinto per i cavalli. Così dal libro Comandante ad Auschwitz di Rudolf Höss. Non è stato facile. Dovevo creare nel più breve tempo possibile un campo per 10.000 detenuti, usando le costruzioni esistenti che, pur essendo ben costruite, versavano in uno stato di completo abbandono ed erano infestate dai parassiti. Il primo lager non è destinato a ospitare gli ebrei che vengono confinati nei ghetti, bensì i prigionieri politici polacchi e chiunque rappresenti, agli occhi dei nazisti, una minaccia da eliminare. Gli oppositori più pericolosi dello Stato dovevano essere opportunamente rinchiusi. Solo le SS erano in grado di proteggere lo Stato nazionalsocialista dai pericoli interni. Tutte le altre organizzazioni mancavano della necessaria durezza. L'occupazione nazista della Polonia deve essere brutale. I polacchi devono diventare un popolo di schiavi. Ed è proprio in funzione di questo obiettivo che i nazisti creano luoghi come Auschwitz, riproducendo un modello di campi di concentramento già sperimentato in Germania. Höss, che lavora nei campi di concentramento dal 1934, sa che il suo compito è creare un posto che semini il terrore tra i polacchi. È Höss a riprendere il motto del campo di concentramento di Dachau, alle porte di Monaco, anche per il nuovo cancello di Auschwitz. Parole che hanno il sapore di una beffa. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. I detenuti polacchi che arrivano nel nuovo campo sono sottoposti a un trattamento durissimo da parte delle SS. Nei primi 12 mesi, più della metà dei 23.000 polacchi mandati ad Auschwitz muore. Ad Auschwitz regna un clima violento e brutale, ma il campo non riveste ancora un ruolo di primo piano nella strategia tedesca, tanto che nei primi tempi Höss è costretto a elemosinare le materie prime più essenziali. Pensare che per le SS sia tutto molto più facile che per noi. Visto che non potevo aspettarmi alcun aiuto dall'ispettorato dei campi di concentramento, mi sono dovuto arrangiare da solo. Sono arrivato a fare anche 100 chilometri fino a Zakopane e a Rabka per rimediare delle pentole e delle padelle. Non avevo idea dove trovare 100 metri di filo spinato, che era assolutamente necessario. E così non mi è rimasto che andarla a rubare. Dopo una giornata passata a rubare materie prime, Huss torna nella sua casa ai margini del campo di concentramento, dove conduce quella che ritiene debba essere la vita del conquistatore nazista, che tratta gli internati alla stregua di servi. Ogni 10 giorni circa, un giovane ufficiale del reparto di guardia mi veniva a prendere e mi portava a tagliare i capelli a Huss. Tutto avveniva nel silenzio più assoluto. Lui non mi rivolgeva la parola perché disprezzavano i detenuti. Io rimanevo zitto perché avevo paura. Possibile che non le sia mai venuta voglia di piantargli le forbici nel collo? Avrei potuto farlo. Avevo rasoio in mano e avrei potuto tagliargli la gola. Non sarebbe stato così difficile. Ma io sono un essere pensante. Lei lo sa cosa sarebbe successo dopo? Avrebbero sterminato tutta la mia famiglia. Avrebbero eliminato metà dei detenuti nel campo. E al posto di Huss avrebbero mandato qualcun altro. Era il deportato ad Auschwitz, Josef Paczynski. Se Huss vive nel lusso, gli internati devono lottare per sopravvivere. In una situazione di estrema privazione saltano tutte le regole della convivenza. Uno dei peggiori crimini che un internato possa commettere è prendere il cibo di un compagno. A raccontarlo è Kazimierz Pieczowski, deportato ad Auschwitz. Se succedeva a chi faceva una cosa del genere, veniva eliminato. I compagni lo uccidevano di notte. Gli premevano una coperta sulla faccia finché non smetteva di respirare. Nessuno ti chiedeva niente. Il mattino dopo, il più anziano del blocco faceva il suo rapporto. Tot deceduti, mi sembra giusto. Ma, scusi, non provava niente, per lei era normale? Assolutamente. Era del tutto normale. Magari per un istante a livello inconscio pensavi: mio Dio, succedono pure cose del genere. Possibile che succedano cose del genere? Ma non potevamo farci niente. Quindi meglio non pensarci troppo. Una volta fatto, chiuso lì. C'era da pensare al lavoro. C'era da lottare per sopravvivere giorno per giorno. Dovevi stare attento alla razione di pane, altrimenti te la rubavano e non avevi niente da mangiare a colazione. Quando c'era da lavorare, ognuno cercava gli incarichi più leggeri. Erano queste le cose di cui occuparsi. Bisognava stare continuamente allerta, occhi bene aperti. Devi sopravvivere. Le condizioni di vita degli internati ad Auschwitz fanno saltare le regole minime di convivenza. Lo avete sentito. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Nel 1940, a sovrintendere agli orrori della vita nel campo di Auschwitz, ci sono Rudolf Hess e circa 300 SS tedesche. Per favorire uno spirito di solidarietà e collaborazione, vengono organizzate serate conviviali con le famiglie. Ma, spiega Huss, è solo una messa in scena. Palic, il caporapporto, era la persona più scaltra e ipocrita che abbia conosciuto nella mia lunga e variegata esperienza nei diversi campi di concentramento. Ha letteralmente camminato su cadaveri e cadaveri di persone solo per saziare la sua fame di potere. Fritsch, primo ufficiale del campo, era ottuso, testardo e rissoso. Anche se fuori servizio cercava di passare per uno che amava la compagnia e parlava sempre di cameratismo. Andiamo, cara. Se ne va di già. In realtà il suo atteggiamento tutto era meno che cameratesco. Domani sarà una dura giornata. Le memorie di Huss svelano un uomo duro di cuore, meschino, sempre pronto a scaricare sugli altri la responsabilità dei propri errori. Buonanotte. Per sua stessa ammissione, fin dall'inizio Auschwitz è un campo di concentramento. Grazie. Dove vengono usati metodi di estrema brutalità. Attenti! Attenti!

Bach Selevski sa che nell'estate 1941, nei territori occupati dall'Unione Sovietica, i tedeschi e i loro collaboratori uccidono a sangue freddo e a distanza ravvicinata anche donne e bambini. Himmler si rende conto che occorre trovare un modo migliore. Migliore per gli assassini, non per le vittime. Il dottor Albert Widmann, tenente delle SS dell'Istituto Tecnico della Polizia Criminale, si reca in Europa orientale. Widmann e i suoi colleghi hanno partecipato agli esperimenti che hanno introdotto l'uso del monossido di carbonio per sopprimere i disabili. Widmann sa però che sarebbe troppo costoso e difficile inviare le scorte di monossido di carbonio nelle nuove strutture così lontane dalla Germania. Occorre trovare un altro sistema. A questo scopo si reca in Unione Sovietica, seguito da un autocarro che trasporta casse di un potente esplosivo. Widmann redige un rapporto per Arthur Nebe, comandante di una delle squadre della morte che ha allestito il proprio quartier generale nella casa Lenin di Minsk. Così da una ricostruzione basata su documenti ufficiali e poi il resoconto di un testimone oculare. Spero piuttosto che abbia portato esplosivo a sufficienza. Lei ne aveva richiesti 250 kg. Io ho portato 400 kg con me, per ogni evenienza. Molto bene. Il bunker è crollato completamente. C'era silenzio. Brandelli di corpi umani sparsi a terra e sui rami degli alberi. Il giorno dopo li abbiamo raccolti e li abbiamo rimessi nel bunker. Quelli sugli alberi che erano troppo in alto li abbiamo lasciati lì. Dopo tanto orrore, Widmann e i suoi colleghi delle SS provano un altro metodo di sterminio di massa, stavolta suggerito da un episodio accaduto proprio all'ufficiale delle SS Arthur Nebe all'inizio dell'anno. Tornato a casa ubriaco da una festa a Berlino, Nebe era svenuto al volante della sua auto in garage con il motore ancora acceso. Le esalazioni di monossido di carbonio per poco non l'avevano ucciso. Proprio a partire da questo incidente, Widmann e i suoi colleghi conducono degli esperimenti in Unione Sovietica. I nazisti hanno trovato un sistema per uccidere le loro vittime con il monossido di carbonio, più economico di quello usato dal programma di eutanasia. Più o meno nello stesso periodo in cui a Oriente vengono effettuati gli esperimenti con il gas, anche i dirigenti di Auschwitz stanno rinnovando i loro metodi di sterminio. Hirsch è lontano dal campo in missione. Durante la sua assenza, nell'agosto 1941, il suo vice, Karl Fritsch, ha un'idea radicale che avrà importanti conseguenze nella storia di Auschwitz. Nel campo i prigionieri sovietici inabili al lavoro vengono ancora eliminati con la fucilazione. Fritsch pensa che una soluzione alternativa potrebbe essere a portata di mano. Ad Auschwitz, gli abiti infestati da pidocchi ed altri parassiti vengono trattati con acido cianidrico cristallizzato, prodotto commercialmente con il nome di Zyklon B. Una volta aperto il contenitore sigillato, al contatto con l'aria i cristalli di Zyklon B sprigionano un gas letale. Per condurre il primo esperimento con lo Zyklon B, Fritsch sceglie il blocco 11 di Auschwitz. È la zona del campo che incute più timore, una prigione nella prigione. Il luogo dove le SS portano gli internati che devono essere puniti, interrogati, torturati, persino giustiziati. Nel blocco 11 ci sono celle dove i prigionieri vengono stipati al punto da non riuscire più a respirare. Celle dove vengono lasciati morire di fame e di sete. Tutti ad Auschwitz sanno cosa succede nel blocco 11, come Josef Paczynski. Io avevo paura anche a camminare davanti al blocco 11. Avevo proprio una gran paura. Anche se era chiusa a chiave, avevo paura lo stesso a passarci davanti. A volte capitava di passare per quel viale ed ero terrorizzato. Il blocco 11 significava morte. In un giorno d'estate del 1941, tra la fine d'agosto e i primi di settembre, Fritsch ordina di preparare il blocco 11 per l'uso dello Zyklon B. Porte e finestre vengono sigillate. La nostra attenzione fu attratta, molti miei compagni lo notarono,

Gli ebrei da noi all'estero. I diversi funzionari amministrativi e del partito presenti vengono subito informati che l'operazione sarà sotto l'esclusivo controllo delle SS. Metodi alternativi per risolvere questo problema? Infatti, è risultato. La riunione di Wannsee, presieduta da Reinhard Heydrich delle SS e verbalizzata parola per parola da Adolf Eichmann, formalizza una dichiarazione di principio fondamentale. Tutti gli ebrei soggetti alla giurisdizione nazista devono morire, non solo attraverso il lavoro forzato. Alla domanda sulla soluzione finale degli ebrei, io rispondo il loro utilizzo in impieghi lavorativi a est. È logico attendersi un drastico decremento fisiologico del loro numero. L'eventuale numero residuo sarà eliminato in maniera adeguata. Dopo la guerra, in attesa del processo, Rudolf Höss descriverà la procedura con cui, in quella primavera 1942, gli internati venivano uccisi nei casolari riadattati. Era della massima importanza che tutta l'operazione dell'arrivo e della svestizione avvenisse in un'atmosfera quanto più possibile calma. I bambini piccoli per lo più piangevano perché non abituati ad essere spogliati in quel modo. Ma bastava che le loro madri li consolassero un po', che si calmavano e si avviavano alle camere a gas, giocando o scherzando tra loro con in mano un giocattolo. Centinaia di uomini e donne nel pieno della vita si sono avviati ignari verso la morte nelle camere a gas, sotto gli alberi fioriti del frutteto. Questa immagine di morte immersa nella vita mi è rimasta impressa indelebilmente. Io li consideravo nemici del nostro popolo. Le motivazioni del nostro programma di sterminio mi apparivano giuste. Non lontano da Auschwitz, poco più a nord, nella Polonia occupata dai nazisti, il ghetto ebraico di Varsavia è un altro luogo di morte. Giacomo Iori, professore presso l'Università della Svizzera Italiana, presenta oggi a Varsavia la tesi di laurea di Mario Lattes, Il ghetto di Varsavia, edita da Edizioni Cenobio, Lugano. Professor Iori, perché Mario Lattes? Ma Mario Lattes perché è un autore che appartiene ad un Novecento relativamente dimenticato, ma che bisogna riscoprire per ritrovare la memoria e le testimonianze di quel secolo fuori dai cliché con i quali molto spesso ancora lo leggiamo. Mario Lattes peraltro è un autore, pittore, editore importante, promuove la sua figura, la sua eredità, la sua memoria, una fondazione animata da Caterina Bottari Lattes. Perché era stato dimenticato Mario Lattes? Posso dire perché è stato in qualche modo rimosso questo suo libro dedicato al ghetto di Varsavia, perché come è stato per sequestro un uomo di Primo Levi, Einaudi nel 63 non lo pubblica, la ragione è che occorreva per ricostruire l'Italia del secondo dopoguerra rimuovere ciò che quel libro racconta, rimuovere o creare versioni mitologiche di quei fatti. E cosa c'è di inedito in questa tesi che è venuto alla luce? Beh, di inedito e diciamo di scomodo da ricordare ci sono due cose, due fattori. Da un lato uno studio molto approfondito delle forme di collaborazione tra ebrei e nazisti. Tuttavia questo libro è Lattes, non dimentichiamolo, è ebreo, ci invita a guardare le cose obiettivamente. Dall'altro c'è una nozione larga di resistenza, per cui resistere non è soltanto, diciamo, resistere eroicamente, ma lascia posto anche alle forme, include anche le forme passive di resistenza, Mario Lattes. Per esempio? Per esempio il sacrificio di una figura importante come Janusz Korczak, che muore con i suoi ragazzi di una scuola, che segue anche egli, condannati a morte a Treblinka, segue e morirà anche lui. Questa è una forma di resistenza passiva, non meno eroica di altre forme che siamo soliti celebrare. E sono passati tanti anni, no, prima che venisse pubblicata. Perché, lo abbiamo detto, perché Einaudi non la pubblicò? Einaudi non la pubblicò perché dopo un dibattito che oggi si può ricostruire grazie alle carte, ai verbali dei mercoledì einaudiani, prevalse la linea che riteneva che di coloro che avevano letto quel dattilo scritto e che ritenevano che non fosse adatto alla linea editoriale della casa editrice. Era stato pubblicato da poco, qualche anno prima, nel 58, un altro libro che proponeva, diciamo, una versione, come definisce uno di coloro che leggono quel dattilo scritto, eroica e mitologica dei fatti di Varsavia, dei fatti del ghetto. E cioè, qual era la linea di Einaudi? La linea editoriale era una linea, diciamo così, più ideologica. Come uno degli interlocutori in questi mercoledì dice, Corrado Vivanti, ebreo, Mario Lattes fornisce una versione non mitologica di quei fatti. Non mitologica vuol dire non ideologica e si confronta faccia a faccia con la realtà. L'unico che ci riuscirà dall'interno della casa editrice a guardare quella sfinge senza chinare lo sguardo, senza arretrare e senza inventare versioni mitologiche sarà Primo Levi, ma anni dopo, con I sommersi salvati. Professor Giacomo Iori, un'ultima domanda. Perché lo presenta a Varsavia questa tesi di laurea, Il ghetto di Varsavia di Mario Lattes? Questa presentazione a Varsavia è data da una serie di felici circostanze, di collaborazioni, tra le quali quella con un editore svizzero, luganese, Cenobio, e diciamo, ha un significato simbolico importante per noi. Significa, diciamo, in qualche modo andarlo a deporre, come se si deponesse una corona di fiori, ma insomma noi deponiamo un'edizione, un libro ritrovato nel luogo stesso che ha vissuto quegli eventi, che reca ancora le cicatrici di quegli eventi, in omaggio alle ragioni della libertà, della vita. Grazie. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.